Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a dicembre del 1859. Firmato l'armistizio con l'Austria, il Piemonte e la Lombardia, ma non il Veneto. Ed è scontro tra Cavour e il re, è scossa la politica torinese, il conte si dimette. Non siamo stati creati, ma siamo frutto dell'evoluzione. La tesi di un naturalista britannico infiamma il dibattito tra Chiesa e scienza. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura la firma dell'armistizio tra Francia e Austria, al quale è stato costretto ad adeguarsi il Regno di Sardegna. Le grane per Vittorio Emanuele II a questo punto sono tutte interne, visto che il conte di Cavour si è dimesso in aperta polemica col sovrano. L'armistizio dunque è stato firmato. A spingere Napoleone III a muoversi da solo sono state una serie di considerazioni di carattere interno ed esterno. Le prime, la pressione dei moderati, compreso il ministro degli esteri Aleksandr Walewski e la stessa moglie dell'imperatore Eugenia. Le seconde, l'ipotesi che la Prussia potesse entrare in guerra da un momento all'altro se solo i piemontesi avessero sconfitto in terra trentina. Fatto sta che l'imperatore di Francia e quello d'Austria si sono incontrati a Villafranca, nel Veronese, e là hanno stabilito le condizioni, già concordate da Napoleone con Vittorio Emanuele II, che pur dimostrandosi riluttante alla fine ha accettato. A differenza di quanto stabilito nell'accordo firmato tra Parigi e Torino, ai monarchi sabaudi non andrà tutto il Lombardo-Veneto, ma la sola Lombardia, nella quale peraltro a Peschiera e Mantova è stato consentito agli austriaci di mantenere le loro postazioni militari. A questa notizia il re Savoia sembra che si sia imbufalito, ritiene indifendibile quella terra senza il controllo delle due fortezze. Il resto poco conta, a partire dall'obbligo per Vienna di far confluire il Veneto nell'immaginaria confederazione italiana presieduta dal Papa, suggerita dal Bonaparte. Immaginaria perché i popoli dell'Italia centrale sono in armi, perché i ducati di Modena e Parma, che l'accordo prevede rientrino nei possedimenti dei legittimi sovrani, sono ormai di fatto annessi al Piemonte. Vittorio Emanuele infine ha firmato, ma il primo ministro Cavour è radicalmente contrario. I due si sono visti e la discussione che hanno avuto, raccontano fonti vicine al conte, è stata durissima. In una delle fasi più accese il sovrano avrebbe detto al suo ministro di ricordarsi chi è il re e lui avrebbe risposto che gli italiani conoscono Cavour e quindi Cavour è il vero re. Vittorio Emanuele avrebbe interrotto brutalmente la conversazione e al segretario del ministro, Costantino Nigra, avrebbe detto: Nigra, calumena macadermi, in piemontese, lo mandi a dormire. Dopo la notte di sonno, Cavour si è dimesso, con tutto il suo governo. Paolo Piacenza al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. In chiusura, una notizia che arriva dall'Inghilterra, ma riguarda tutti noi, perché sta scuotendo il mondo della scienza e della religione, l'opera appena pubblicata da un naturalista di nome Charles Darwin, andata esaurita in poco tempo. Si intitola L'origine della specie e sostiene la teoria che tutti gli organismi viventi, uomo compreso, si sono evoluti per un processo di selezione naturale. L'autore scrive che non vede nessuna ragione valida sul fatto che le teorie sostenute in questo volume possano urtare la sensibilità religiosa di qualcuno, ma il mondo cristiano, convinto che l'uomo sia frutto di un atto di precisa volontà divina e di creazione, è già entrato in polemica con Darwin. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Scriveteci a gazzettino@radio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook, visitate il blog, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.